messo sarei tu. Salve Gianni. Ciao. Oh, sono incasinato meno, stavo controllando la briga perché c'ha due di stazionari, non riesco a cavarne più. Ma solo quell'apparecchio o tutti gli apparecchi collegati a quell'antenna? Tutti. Ho provato a rifare il PL, adesso prima non si sentiva QRM, adesso gli ho cambiato il PL e il QRM si sente, però sempre, le stazionali sono sempre alte, aspetta, adesso provo a regolare così a vedere se riesco a farle scendere. Grazie. Ascolta, ma io ieri ti ho sentito un accenno che stavi mettendo il dubbio che non fosse il rosmetro a essere partito, non l'antenna. Ah, rosmetro, le ho messo anche un altro rosmetro per vedere, poi ho misurato con il rosmetro dell'apparecchio e mi dà tutti e tre i rosmetri la stessa cosa, aspetta. In tutte e tre i rosmetri mi dà lo stesso valore, Marco. Oh cavolo, tre ne hai provati, allora no, non c'è ombra di dubbio. Allora è l'antenna che ha qualcosa. E cosa può essere? Boh, il vento può avere mollato qualcosa, può avere tipo fatto cascare il cavo all'interno del tubo anziché rimanere verso su, che si sia sganciato da su, sia rimasto un po', capito, caduto un po' nel tubo, un po' mezzo moscio, una cosa del genere. No Marco, io penso invece che sia la molla che si sia mossa. Aspetta, la molla? No, già, aspetta, scusa, perdonami, tu non avevi la Game Master? No, avevi cambiato. La molla deve essere mollata. Ciao Natà. Ciao a tutti e due. Ma Gianni, aspetta, ricordami che antenna avevi preso tu? Io stavo pensando alla Game Master, ecco perché ti ho detto che credo che fosse mollato il cavo da dentro il tubo. No, cosa avevi? Una Super LEM o Super 16, una cosa del genere? Sì, ho la Super LEM. La molla sì, però se si molla lì praticamente non hai più antenna, sarebbero infinite le stazionarie. Oddio, no, magari voi ne sapete più di me perché io non ho familiarità con quella bobina, non so come si tara nemmeno. Allora la bobina si tara allargandola e stringendola, capito? In base a quello le stazionarie si abbassano. Ah ecco, allargandola, cioè non è a dire che si è sganciata, quindi se si è, per esempio, se la larga, sai come fa l'effetto molla, si è ristretta e ti ha alterato le stazionarie. Vabbè, poco male, l'importante non sia una rottura, la rottura proprio di un elemento che devi sostituire, è quello poco male. Sì, poco male, però io non ce la faccio a salire, con le gambe tutte due operate così non ce la faccio. Se no me l'avrei fatto io, non avrei chiesto a nessuno. E poi quanto hai? Molto palo hai? Lo sai, anche tiranti, c'è un po' un casino abbassarla, no? No, non è un casino, ci arrivi così tranquillamente, la passi di un elemento e ci arrivo. Ma c'è una calma piatta, più un crepitio, lo sentite sto crepitio? Che sia la tempesta geomagnetica. È proprio quella. Ci manca solo di vedere l'aurora boreale a Sassari, mi. Finiamo come il Polo Nord, tempo impazzito proprio. Già, e quindi cosa puoi fare tu adesso? Accordare solo con l'accordatore, però le puoi eliminare. Marco, non accorda. Che cacchio? Ma aspetta, io credo di aver sentito anche ieri che tu inserivi e disinserivi l'accordatore e funzionavano lo stesso nel manopole. Come che non staccassemi l'accordatore? Fino a ieri andavo, adesso non va più, va sul rosso. Aspetta un secondo che me la controllo, se no mi spacco tutto qua. Aspetta. Strana, buca, non riesco a ecco, così dovrebbe essere, vabbè. fenomeni paranormali incontrollabili. E beh, come a me quel giorno che mi salivano le stazionarie e non capivo perché. Salivano, oscillavano tra 2,5 e 3, poi riscendevano, boh, a meno che qualcuno si stesse giocando con qualcosa, non si sa, oppure semplicemente c'erano cose, pezzi di ponteggio vicino al gabbiotto, la buttati e faceva interferenza, non lo so. Vabbè. Adesso se troverò qualche anima buona che me la può controllare, me la faccio controllare, perché a salire non ce la faccio, se no vedo tutto e basta. E addirittura drastico. No vabbè, io se non fossi, se non avessi paura delle altezze, vorrei io aiutarti, ma mamma mia, a me come salgo già su una sedia non mi sento sicuro. Ce ne soffro anche io di vertigini, so cosa vuol dire. Aspetta Marco, metto a posto un po' l'attrezzatura e poi ritorno. Ehi, al limite usa una potenza minima in modo da non stressare i finali, giusto Natalino? Yes, sì, Natalino è sempre con 2 watt, l'ascoltano dappertutto, quasi dappertutto. Lascio bella bulutto tra stanotte e domani, mi, che c'è mezza Sardegna a Sassere a vedere la cavalcata. Ci sarà fame di parcheggi, mamma li turchi. La mia già è parcheggiata la macchina. La mia pure, sai cosa faccio? Quando se ne libera uno, si mette la moto in mezzo, lo scooter. Quando vedi questi che vengono da Cagliari, da Coso, che sono disperati, che vogliono il parcheggio per vedersi la cavalcata, guardi, se mi dà 50 euro le sposto la moto, la può lasciare tutto 2 o 3 giorni quanto vuole lì. Sì, 100, non 50, 50 cosa so. Ma non sono così esoso, dai. Sì, vabbè, ma 100 sono 100, 50 sono 50. 50 non valgono più nulla, è come che c'è 5.000 euro, 5.000 lire, da. Noi ci siamo fatti il giretto, ho portato la vecchia, si sente mi taglia a fondi, a Platamona, per un gelato, visto che sennò la giornata era lunga e lei si annoia, si deprime, allora usciamo, diamo la rotonda a pigliare il gelato. Poi abbiamo sbeciato la rotonda, così però non c'era posto a fermarsi, allora piano piano abbiamo fatto un po' di litoranea e siamo rientrati. E oggi ho già dato, adesso non voglio sapere più niente, adesso mi metto in pantofole, in perizoma e eccetera. No, io ero in perizoma, ma mi ha tolto anche quello. Cos'è il perizoma? Allora. Poi quello va bene per le donne, agli uomini cosa gli copre? Nulla, gli copre la punta, gli può coprire al massimo. È per quello che me l'ho tolto. Qui vale a non averne, quindi se lo togli e vago con la picchiriola pendola. Che poi non ho mai capito, guarda, non ho manco cercato su internet, qual è la differenza tra tanga e perizoma? Non ce l'ho presente, potrei guardare, vedere la forma. Uno è quello che c'ha il filo tra le chiappe, presumo sia il perizoma. Yes. Sì, c'è una calma piatta e sento come questo crepitio, mi... è tutto... così, non è un motore elettrico, magari sono le particelle che vanno nelle parti alte dell'atmosfera e creano questo disturbo qua. Sì, infatti, nelle bande HF dice che i segnali addirittura si sono abbassati di molto. Sì, è vero, certe bande si sono quasi chiuse, se non chiuse del tutto, così diceva il giornale. Il conto del giornale aumenta sempre la drammaticità della notizia, no? Però ne hanno risentito. Quindi questa è una tempesta geomagnetica, non è un flare solare. Il flare solare è diverso. Il flare solare mi pare espulsione di massa coronale, ma proprio in grandi quantità. Non ne so altro. C'ho sonno. Come? C'ho sonno. Riposati Natali. C'ho fame, se c'è sonno. Ma se mangio Allora, se mangio, se picchia, si trova, mi basta la parte, la fame, la sede, l'usone. E davvero? Chissà, sto pensando all'antenna di Gianni, ma questa molla, come si serra? C'ha delle cose, dei morsetti per tenerla in sede? Come mai si è mollata? Non so neanche come è fatto, dopo me la guardo su internet. Ah, il morsetto è un rullone che gli passa un bulloncino che si stringe, prima si regola e poi si stringe. All'anima, se ci siamo mollato, vabbè, io avrei messo sempre le, sai, quelle fascette autobloccanti, no? Che tendono a pinciare, in modo che non si svia. Vabbè, dai. Evidentemente, non era stretta bene, si è mollata, magari ho il vento e cosa, capito? Può essere mollata e quindi ha variato le stazionali. Non lo so. Adesso, come mi ascoltate, Marco, come mi ascolti? Il canale di segnale è sempre lo stesso. Beh, questo è un 920, sì. Sei tu tipo da liscio. Perché quando attacchi sei 925, se metti il massimo anche sul P30 arriva, dovrebbe, sì. Per quanto mi ricordo, È abbassato. Prima era fondo scala completo quando lo ascoltavo, adesso è abbassato di uno. Ma Gianni spesso pompa, adesso non so quanti watt siano. Spesso, io pompo ogni 50.000 anni, adesso non ce l'ho più, quindi non pompo più. No, ma dico anche quell'apparato bello, famoso, no? Lo frequenzimetro, quello non è che esce con 4 watt, è più performante. Qua 920, non saprei, comunque è un buon segnale, cioè per dove sei tu, sei agli antipodi della città rispetto a me. Quanti watt hai? 4, 5? 10. E vabbè, siamo lì, raddoppi, mezzo Santiago in più, dai. Cioè 9, non 10, 9, esattamente. Mi sa che lo dico a Pomponio se ci viene. Sì, Pomponio, basta che lo trovi, però la mattina, farò venire la mattina qua nel sobrio. No, è meglio, no? È più stabile perché se deve salire in alto è meglio, è più bilanciato. No, in alto, il mio palazzo è molto comodo, ci puoi passeggiare, è tutto in piano. Deve solo salire sulla gabbina dell'ascensore dove è attaccata l'antenna, scuri. No, perché quando ha piazzato questa, no, io sai che ho paura, lui è salito sul gabbiotto, no, dalla scala sul gabbiotto centrale, e io già con le mani in testa, attento, che poi il gabbiotto c'ha una parte come la tua, spiovente, no, che se lui perdesse l'equilibrio, gli viene un capogiro, rotola da lì e vola in strada, capito? Perciò io ho molta paura delle altezze, perciò lo devi trovare in buone condizioni, quindi mattina, massimo primo pomeriggio lo puoi chiamare. È fatto apposta per scendere l'acqua quella discesa lì, però se metti mani prendi vai a vero uno scivolo. Sì, già, pensa, tu sei sul gabbiotto, ti viene un capogiro, perdi l'equilibrio per un attimo e se finisci che rotoli in quella direzione è fatta, Provi l'emozione del volo, Il paracadute, il pigiocchiaffe, ma non fa in tempo a aprirsi, vabbè, stiamo scherzando. Antonello, ti voglio bene, lo sai, però meglio la mattina o il pomeriggio, ripeto. Ah, adesso aspetta che controllo una data, credo che ormai l'antenna mia abbia compiuto 10 anni, siamo marzo, aprile, maggio 2014-2024, devo vedere il giorno, ma credo che ci siamo. L'antenna ha compiuto 10 anni, un'antenna di chicchia, di cartone, che non le avrei dato 2-3 anni di vita, eppure funziona. La mia c'è esattamente 15 mesi. 15 mesi, piazzata, tutto nuovo, paro, scavo, antenna, tutto nuovo, tiranti nuovi, cazzo, non capisco la scalogna che ho io, cazzo. Io, che poi se ci pensi, io avevo tolto il palo del 92, no? Nel 2014, anzi nel 2013 avevamo cambiato il palo e c'era la Ringo, no? Poi dopo un anno per disperazione l'ho tolta. Il palo era nuovo, adesso il palo ha già 11 anni, cioè non potrei più chiamarlo nuovo, capito? magari l'incattura potrebbe averne ancora, però si è presa 11 anni di smog il palo, e l'antenna 10 anni, infatti se poi sicuramente la vuoi pulire è nera, ne esce di tutto, esce catrame, nero fumo e di tutto. Mi chiedo in che condizioni sia la bobina, mi chiedo se quell'astuccio di plastica, quel tubicino di plastica trasparente sia ancora intero oppure si sia rotto e c'è la bobina a vista, magari tutto ossidata, chi lo sa. Un giorno chiedo al padrone di dare un'occhiata. No, ma non penso, Marco, penso che sia materiale che resiste, dai, alle tempie. Ma tu stazionario non hai avuto 11 anni, io cavolo c'ero un anno e mezzo, questa qua già stazionaria, non ho capito, è un'antenna buona, l'ho pagata, perché l'ho pagata, 180 ha costato. Sì, ma sicuramente si è spostata un po' il coso, ma quindi se, quando le metterete a posto il bulloncino che tiene, metteteci una sul dado, una di quelle che ti ho detto prima, quelle fascette spezzate auto che pinzano, auto come cazzo si chiamano, Natalì. Mettergli un controdado e non si molla più. Anche, ecco, autobloccanti, sì, un controdado anche. E possibilmente se vedete bulloni messi male, dadi messi male, cambiateli e metteteli in acciaio inox, andate al Bricco e prendete tutta bulloneria inox, guarda, ne guadagna di cosa, di durata. Ci ho già pensato la casa a fare in inox, sono tutti in inox quelli che abbiamo messo, e in più in acciaio c'è anche la parte di sotto dove attaccare i radiali, tutto in acciaio. Ah beh, buono che abbiamo dato già bulloneria inox, per esempio nell'Energy dubito fortemente che fosse inox, c'era stato quel ferraccio di incatto che adesso saranno un coso di ruggine saranno. Energy sono antenne da dridici, se non mi vuole mettere dridici con la remna, ma remna è un'antenna seria, è come la matto qua uno. No, ma poi te ne accorgi anche dal prezzo, per esempio la Grazioli, che credo sia il top, tutta la 5 ottavi, la mezz'onda, anche quella 7 ottavi, come la 5 ottavi più un quarto, quella lì, tutto inox, tutto buio, alluminio buono, di generoso spessore, quelle sono delle, tutto bullonerie in tirano, hai visto quanti pezzi ha da montare l'antenna? È un capolavoro, lo paghi, però giustamente, cioè se la mantova ti dura 20 anni, 30 anni, l'altra ti dura 50, 60 anni. Comunque questo qua il problema l'ho risolto, quello che non si sentiva, che come abitavo a Ghera praticamente non si sentiva più l'audio, la svitavo e si sentiva, e l'ho risolto, l'ho cambiato il piede, non lo fa più. Del PL, no, credo una ghiera di altro tipo, ma ascolta, PL, solo la ghiera è cambiato, così è? Tutto il PL. Che PL hai messo? Quelli Bacchelite, quelli buoni o Fusaresco? Quelli Bacchelite, io ne avevo qualcuno conservato. Ehi, a quelli bisogna centellinarli perché sono buoni, bisognerebbe ogni tanto fare un piccolo ordine da Media Globe, ve l'ho detto. O fare un ordine di gruppo, oppure così ognuno se ne prende una decina, e bisogna usarle per le cose più importanti, tipo proprio il cavo maestro che arriva dal tetto, poi gli spezzoni, vabbè, farli tutti sarebbe troppa grazia. Io ce li ho tutti in macchinette, anche gli spezzoni. No, Gianni non vada a spese. No, io quando faccio le cose le faccio come si deve, non metto lo spezzone degli 58, magari dell'HP1000, con una discesa di HP1000, metto tutto il cavo uguale, non mi piace fare le cose tutto per sciappare. È pignolo Gianni, capito? No, vabbè, io l'ho messo le RG58 come spezzoni, perché veramente il 213 mi trovavo male, troppo rigido, bastava, faceva torsione sul PL, infatti non per niente su un 3009 mi ha rovinato quel piccolo, quella scatolina metallica che poi è il circuitino di passa basso, il filtro antifuai, quello mi ha rotto. E allora d'ora in poi ho detto mai più il cavo 213 diretto al baracchino. Ho messo quel filtro buono anti TVI, quello migliore, non è ZG, e poi il 58, dai, perché arrivi al baracchino e boom. Io ho messo l'accaccetto e non è per niente, è come nel 58, solo che c'ha praticamente una protezione in più, c'ha, come si dice, vabbè, non mi viene la parola, là. C'ha tutta la guaina attorno al coso, tutta quanta, tipo, cosa ti posso dire, in alluminio. E non fa passare radiazione, cosa che danno fastidio. Sì, già. Quindi stasera qualcuno va a vedere i concerti, cose, in piazza c'è un bel di roba. Stavo vedendo già delle tipe in tenuta la battaglia, col caldo, con le mezze nude. Ho detto, oi, il coso che c'è in giro stasera. Schermatura, Marco, non mi veniva la parola. Oi, Sandokan! Frigido! Oi, Biondo! Buonasera a tutti! Ti ho chiamato poco fa, cavolino, e tu non mi hai risposto, deve essere stavi affettando alla grande. No, adesso ho chiuso, ho visto che non rispondeva nessuno, ho chiuso e sono andato a fare la luce. Io non ho fatto a tempo a rispondere, tu sei di chilo svelto, ga. È dalle 5 e mezza sono in piedi. Sì, già lo so. Poverino, mamma mia. Riprendete voi, ciao Gianni, ciao Marcoli, a dopo. Ciao, un attimo, mi assento un attimo. Ciao Emanuele, ben sentito. Ciao Brigido, buon tutto, buona fettatura, cava. Ieri Natale mi sentivo così giù, ho detto ma qua c'è qualcosa che non va, poi il cuore anche, non so se fossero extrasistole o un po' aritmie, però il mio è di origine nervosa, so che sono extrasistole. Poi misuro la pressione era normalissima, io mi sentivo come se fossi, come avessi la pressione sotto le scarpe, boh, io non so che pesci prendere. Secondo me soffri di ansia tu e dovresti prendere delle gocce che ti calmino. No, ma non era ansia, era proprio stanchezza a livello muscolare e anche il muscolo cardiaco. Fiacca, proprio fiacca, pensa che dovevo buttare la spazzatura, non ce l'ho, ho detto no, non me la sento, ho detto l'ho buttata oggi alle 2:30, il pomeriggio, no, prima di uscire. E che te devo dire? Tiriamo avanti. E tiriamo avanti sì. Da ieri notte ero a mal di pancia io. Non ho preso più neanche le pastiglie di Brufen. Lo sai che mi erano i gribendi di stomaco. Ma perché sono pesantucce per lo stomaco? Adesso io non mi ricordo, il Brufen, vabbè, io non lo prendo, mamma lo prende, però non mi ricordo se si prende a stomaco vuoto, cioè se va preso a stomaco pieno o anche a stomaco vuoto. Che è? Aspetta, oh, non riesco a trovare un mio messaggio antico. Mi dà una futta, ma dove sarà? Ah, ecco, l'ho trovato. 12 maggio, oggi cosa è? Oggi è sabato 11 maggio. Allora, si presume che questo messaggio io l'abbia fatto il giorno dopo dell'installazione. Sì, allora proprio con oggi, si presume con oggi l'antenna ha compiuto 10 anni. Non l'avrei mai detto, Natalia. Vedi, a me mi è durata da Bacca a Sant'Ivano e a te 10 anni e sta ancora andando. Sì, mi guarda, 12 maggio su un forum, 12 maggio 2014, 73 a tutti, ho messo fine alle sofferenze della Ringo, LEM, sostituita dalla CTE, Midland New Energy, eccetera, eccetera. Ok. attaccata, ma lo sa la gente che ce l'ha buttata quell'antenna perché faceva difetti, boh. La tua 10 anni sempre andando. Sai che certi, cioè, seguono il manuale, stringono le dritti, fissano i radiali, attaccano il PL, l'antenna piazzata. No, bisogna isolare tutto l'isolabile, i giunti tra gli stili, e quei cosi della bobina dove c'è quel tubicino, il PL annegato nell'auto agglomerante, tutto quello che potevamo isolare l'abbiamo isolato, se no è inutile. E così ho fatto io, solo che a me mi entrava acqua e deve essersi rotturato il foro che c'è per far scorrere l'acqua, e quando pioveva praticamente mi salivano le stazioni a fondo scala. Addirittura a fondo scala, cavolo! Stavo pensando, sì, c'è un forellino, ecco, invece quel forellino di sfiato, quello l'ho lasciato libero, perché praticamente se fa condensa dal freddo all'interno dello stilo, tutto lo stilo, non lungo bello, si deposita sul fondo e non può uscire, invece col forellino che va lasciato libero, quello sì, può uscire all'esterno la condensa, l'acqua, o asciugarsi al sole, insomma. Lo so, deve essere che nella mia si era otturato quello e praticamente non defluiva l'acqua, capito? O la condensa che fosse, boh. Avanti, che vuole entrare? Ciao Marco, scusa un attimino, che adesso, ecco, qui sono 1 e 2, almeno, con 2 braccia sono 1 e 2. 1 e 2? Ah, vabbè, però 1 e 2, cioè con 2 watt 1 e 2 e con 9 watt ti dava 2 di stazionarie. Ha registrato, ma strano perché non c'è proporzione già, cioè non può aumentare così tanto da 1 e 2 a 2, è strano, vabbè, qualcosa da controllare c'è nell'antenna. Avanti e break. Così mi dà 2. Già, mandalo avanti, forse è propagazione, sento un break, credo con l'eco. Avanti il break, avanti il break. Non mi sento, non sono piccolino. No, può darsi che abbia le allucinazioni io, Comunque non è sul rosso, è dal 3 che ce l'ha messo, perché fino al 2 e mezzo non è rosso, poi dal 3 è rosso. Comunque già confermo, 10 anni, ha compiuto 10 anni in antenna. Cesso Maria, e vabbè, peccato che quel cavo poi sia stato tutto, vabbè, tagliato, insomma. Poi chissà com'è il cavo, sai, deve sopportare il sole, la guaina nera, perché poi a un certo punto dopo tanti anni fa quelle bolle, come se fosse cotto nel forno. Già, non ti capisco. Ho detto, se hai una RG58. Oh, Natali, traduci. Ha detto, se hai le RG58, togli l'eco, Gianni, che fa schifo, no? E non ci capiamo. Se bastava a dirlo, non me ne sono accorto, c'è il tuo eco là solo. Allora, già, io dalla calata è di 213, dall'antenna fino al baracchino è 213, poi c'ho il famoso filtro anti-TVI che non ero tenuto a mettere, ma ho voluto mettere, e poi lì un pezzetto di 213, di RG58. Ah, poi io di solito non lascio il rosso, metterò roba in mezzo, è già troppo che abbia il filtro, quel filtrino là, è meglio averlo comunque. Non lascio però il rosmetro attaccato, perché anche quello mi dava perdita in più, ogni cosa minima che aggiungi ti dà perdita di segnale in trasmissione e anche un po' di ricezione, se vogliamo essere pignoli. No, io ce l'ho attaccato, non mi dà nessun problema, cioè mi ascoltano bene lo stesso, non è che, però almeno c'ho tutto sotto controllo, se no non me ne sarei accorto di questi stazionari, se non mi sia tutto attaccato come facevo ad accorgermi? Dallo smitter, aspetta, non mi ricordo, aspetta che apparato è adesso, io dallo smitter me ne accorgo, allora, se 9, 9,5, quando trasmetto, no? Tutto bene, se lo vedi sotto il 9, oltre il 9,5, allora hai stazionarie, e poi qui c'è il rosmetrino, anche se fa ridere, no? Quello del 3009, però se hai stazionari alte te li segna comunque, facendo cal SVR, no, facendo il fondo scala SVR. E anche nel Galaxy ce l'ho, e anche nel Ruis ce l'ho, però il problema è che lo segnavo anche nel Galaxy le stazionari, capito? Cioè ci sono, perché ci sono, non è rosso, metro, è proprio una questione di stazionari che ci sono, boom, bass, tutto lì, ci sono, pazienza. Allora, di questi rosmetri di Baracchino, il più preciso, perché l'ho confrontato con l'MFG, è quello del presidente McKinley, quello MFMSB, quello lì che è automatico, cioè tu premi SVR, avvii la procedura e lui misura, no? È il più affidabile. Sì, può, magari ai limiti di banda può variare di un punto, anziché che ne so, 1.1 ti segna 1.2 o viceversa, però è molto, invece questo del 3009 è un po' è raffazzonato, potevano anche non metterlo, vabbè. Io sia quello del gas che quello del Ruiz sono uguali a l'orometro che c'è stazione, uguali identici. Ah, e le basi, no, quelle grandi, e quelli li cureranno un po' di più, poi avendo strumento grande li cureranno, anche perché se li facevano ben pagare quegli apparati. Questi costavano un sacco di soldi, quando li prendevano nuovi costavano sulle 600.000 lire per fare. Se non faccio passaggi nuovi già va bene lo stesso, ce l'hanno. Ma metti la 2 watt come lo uso io e così non rischi. Sono tutti chiusi qua. Lo metti così a 2 watt come ce l'ho io, tutti chiusi, e così almeno se ti dà 1.2 si è sicuro, da finché non metti a posto l'antenna. Infatti così faccio, e se no scala un po' di si brucia tutto. Sono tutto con 2 watt adesso. Infatti, tanto per città, cazzo, ce n'è per i corsi con 2 watt, ti ascoltano tutti forti. Comunque una cosa non risolta, perché se facendo il PL poi ho risolto il problema dal fatto che se mettevi la ghiera, quando mettiamo la ghiera se ne andava via proprio tutto il QRM, poi la svintarvi, lasciami solo per centrale. Si sentiva bene, l'ho risolto cambiando il piede, quindi l'ho risolto, adesso devo risolvere con le stazionali il problema, quindi lì bisogna che salga qualcuno, uno sta giù e l'altro controlla e via. Ecco, con quel cavo fine se ne vanno in corso i piedi, perché basta un filettino della massa che tocca la, il dielettrico e ti fa quel lavoro lì. Devi stare attento quando fai il PL. Esatto, io non avevo fatto il PL, no. A parte che questo qua, capito, è tutto quanto, c'è la calza coperta da quella specie di cosa, di carta tipo un cucchiaio in alluminio. Quindi quello lì basta mettere prima la calza e poi sopra ci metti quello e non c'è il rischio che i figli, come dici tu, tocchino. Quel rischio non c'è, perché basta che tu lo metti sopra e non c'è il rischio, poi avviti e via dicendo. No, ma è il modo come farli proprio i PL, quel cavo fine ti fa quello scherzo lì spesso e volentieri. Sì, magari ci scappa qualche filamento, ma l'ho messo gli occhiali, già l'ho proprio vedo tutti prima di l'ho lisciato bene. E beh, per forza. Oia, che vuoi che ti dica? Cazzo, da ieri notte a mal di pancia ero. Fino a stamattina dolori forti. Non ho preso più il brufen perché io dico me la gribendista ora molta cosa. Ma il gas protettore cosa lo sta? Cosa? Il gas protettore lo sta prendendo. Sì, a ogni giorno a colazione lo prendo, insieme alle altre pastiglie. E poi devi prendere lo stomaco pieno, mai lo stomaco vuoto. Sì, lo so, e non facevo così. Surghi è troppo bottente, mamma mia. Ma abito a quel tipo di impasti che non ci guarderei più nulla. Infatti, quando il fisico è cioè fatto sei bruttito. Speriamo il 15 risolviamo quando mi fanno la cistoscopia. Speriamo, va, si è trovato. Sì, sì, so che come sono ridotto. Ti l'avevi saputo che. Avanti Marco! Cappa, stavo leggendo messaggi, stavo vedendo un'antenna bella bella, non è un'antenna, è l'antenna. Cosa vuol dire? L'antenna per antonomasia, non per Antonio Masia, per antonomasia, la Grazioli, l'unica grande, l'inimitabile Grazioli. Qui Luca la sta vendendo. Ma è bravo, bravo, e infatti stavo guardando quella. E vabbè, a me non serve, piuttosto io ero curioso di, vabbè, però è una prova, come fai a, ero curioso di sapere se la Venom, quella porcheria, la Venom installata, come ho installato questa, isolando tutto l'isolabile eccetera, isolandola bene, sarebbe durata quanto questa? Dubito, non lo so, perché quella bobina della Venom è veramente brutta. E poi già ve l'ho detto che è fatta, c'è quell'anima in cartone del nastro isolante, un'anima in cartone con sto filettino sottile, aio, è la parte più brutta dell'antenna quella. E quello, se prende umidità, anche tipo condensa che si forma all'interno, quello rimane umido e succede un casino. L'antenna che tu puoi mettere provvisoriamente quando c'hai, tipo adesso io ho questo problema, metti quell'antenna lì provvisoriamente, poi quando aggiusti l'antenna la chiudi e sono per scorta. E io, se come fa qualcuno per fare DX, no, DX in 27, così, anche per altre bande lo fanno i radioamatori, vanno in una località bella alta, no? E si portano antenne CB, tipo quelle telescopiche, e sai qual era la telescopica all'epoca, non esiste più, la Echo, Echo Antenne Vega 27, col W, Vega, come si dice, quella era telescopica, cioè tu la togli dalla macchina, l'aprivi tipo una canna da pesca, serravi le ghiere, poi ti portavi un portaombrellone, un paletto da un metro anche di ferro, la piazzavi lì e ti facevi DX, non con un quarto d'onda la macchina, ma con una bella 5 ottavi messa a fianco alla macchina, capito? Volendo vendevano anche passaruota in ferro, o come dire, i supporti per il palo, ci passavi sopra con la ruota e lo tenevi bloccato, quindi il vento non te la rovesciava. Beh, è tipo quella che ci ha vinto un gioco, che si vede prima l'antenna e poi la macchina. Adesso non ce l'ha più perché non ce l'ha più il furgoncino, quindi cioè ce l'avrà, ma ce l'avrà rotta, non so se l'ha aggiustato. Ah, eravamo con te quella volta, lì a San Francesco, cazzo di antenna, scusate la parolaccia, ma ci hai visto quanto era lungo quel palo, quello lì? Ci ha messo il filo intorno, leggermente liquidare, come ha chiamato l'hanno sentito all'istante. E altre bande, altre antenne, altro tutto. Era più alto del palo della luce, molto più alto. 10 metri è alto. E poi ci hanno dato già la stazione dentro, amplificatore dietro, eccetera, eccetera. E stavo parlando con Furi, stavo parlando con l'estero e non mi ricordo dove. Come apparato credo che fosse l'897 Iaesu, non era l857, mi pare l897, forse c'ha più watt, poi vabbè, i watt relativi, tanto c'è l'amplificatore che fa il resto. L'857 aveva, come quello che avevo io, che già con 100 watt ti ascoltano, figurati se ti attacchi l'amplificatore tu. Ah, però io gliel'avevo visto, mi pare, anche l'897, è più alto, è alto il doppio, mi pare. Ma i watt sono uguali. Oh, i watt uguali, come mai è così grande? Cosa c'ha? Più filtri, più roba, più tutto? È più imbottito, no? Ma non so. Un altro modello. Cazzo, certo, quello che avevo io, cazzo, le mani mi dovevo tagliare, cazzo. Era tutto regolato a puntino, cazzo, in tutti i posti che andavi usciva bene. Quello quadribanda, quello che usavo per parlare dalla macchina, l'857, quello schiacciavo qua e usciva bene, me ne andavo ad altri posti, era tutto regolato, perché quello vuole regolato, se no esce male. Quello se te l'ho fatto regolare una persona che conosciamo, me lo ricordo bene. Anche lui ce l'aveva uguale. Era bello quello lì, era piccolino, però faceva vedere per un padre in mano. E allora, c'avevo l'unità centrale nel cofano e c'avevo solo il frontalino davanti, no? Lo figata! Cazzo! Quando schiacciavo con quella, vedete, ci uscivo forte. E quello costa, costava, adesso non lo so. Sono belli, sono anche per ascolto, vanno benissimo, ascolti a tutte le parti. Era Iaesu? Sì, Iaesu 857D. Il mio aveva anche il microfono con la tastiera che lo potevi accendere e spegnere dal microfono. Ma ti dov'è? Perché te l'hai venuto? Già, anch'io l'ho avuto quello lì, poi ho fatto fine brutta. Perché? Allora, io volevo provare a fare la patente all'epoca, no? Poi alla fine tra spese, cioè se devi fare una stazione seria devi essere benestante, in poche parole, cioè per fare porcherie tanto vale non farne. Poi mi sono molto disilluso, eccetera, passata la passione, vabbè, l'avevo venduta a Pomponio. L'ha voluto, io non l'usavo, erano soldi fermi, e poi Pomponio l'aveva prestato a qualcuno. Caso strano, come presti la roba, scendono i fulmini, è stato fulminato questo apparato. E quindi Pomponio si è trovato con l'apparato fulminato e così. Vabbè. Non mai prestare niente a nessuno, io sono geloso delle mie cose, dico la verità. Che coincidenza però, capito? Tu presti un apparato, quella persona gli scende un fulmine sull'antenna, una cosa così remota, e poi vabbè, pazienza, pazienza. No comment! Io non dico! Io vivo in campagna! Che poi, Nathalie, tradotto, cosa vuol dire Deo non dico? Io non lo so. Ah, quello, proprio Deo non dico. Con la H, non riesco a farla bene. Non dico. Non esogo, vuol dire. Sardo. Deo non dico, tradotto, io non lo so. Io neanche saccio. Niente di sì. In basala. Che c'è, se vergogna signora, te lo dico di Giannini, in quel film con quella bionda, quanto era toga l'ha melato in quel film, mi piaceva da morire. Avete parlato in due, sì, ho copiato l'antenna, sì, la bottana industriale. Che c'è, se vergogna signora. Guarda, quel film era un capolavoro. Poi vabbè, l'hanno rifatto con Madonna e col figlio di Giannini, però... Cioè, non puoi copiare o imitare la perfezione, non è, non esiste. Sì, e dipende anche dal regista, ci voleva lo stesso regista, non è così a farlo uguale. Sì, la Melatto, guarda, in quel film mi è piaciuta più di tutti gli altri film. Bella anche l'aspetto, no? Poi c'è strana, c'ha questi occhi un po' distanti, poi a molti non piaceva la Melatto all'epoca, mi ricordo. Dice è brutta, e averne come la Melatto. Allora, per caso sapete dove hanno girato, loro sono finiti su un'isola deserta, tra virgolette, per caso sapete dove l'hanno girato il film? Perché una volta l'avevo letto su internet, ma non me ne ricordo, credo che sia proprio un'isoletta, guarda, vedete, zona Sicilia o zona Sardegna, aspetta che prendo, che lo cerco su internet. Ma non saprei, non sono informato. Marco è perché delle cose. Catalino. Poi. Ma c'è scriveva era a Bancarelle stasera. Dove vado? A Bancarelle. E allora? Se sai come sono? Altro che Bancarelle, a chi si aggira un di soliti Bancarelli? Beh, domani c'è la cavalcata, sarà una San Giuseppe, come tutti gli anni, giardini. Io voglio il torrone. Per prestare le gambe e che mi passassero i dolori io, per poter andare. Io facevo una battuta. E tu Marco? Ci vai, cosa c'è di bello stasera? Nulla sai, tu che sei sempre formato su... No, anzi, guardi, queste cose di Sassari, no, sapevo che c'era un concerto, ma non so di chi, di cosa, di quando, ma tanto se non è roba rocchettara forte non mi piace. Allora, io voglio il torrone, a Bancarelle sempre il torrone prendevo, infatti già c'ho i denti distrutti. Marco, ti do i soldi, se vai mi compri il torrone. No vabbè, io dico che vado, poi non vado, no, troppa bolgia, mamma mia. Poi da solo è brutto, dai. Devo venire a CDC, ci vai. Ehi, se sono vivi, sì, ormai ci avranno, saranno col maccolo. Io ho tutte le musiche delle CDC in macchina, di quelle che ti fanno correre. Sì, quelli sono una figata, io ho iniziato proprio con gli ACDC quando avevo 11, 12, 13 anni. ACDC, poi un po' di Iron Maiden, le cose base. Poi sono arrivato a ascoltare cose mostruose, roba proprio satanica. Poi ho ascoltato tutto il rock, però non sono solo metallaro. Mi piaceva di tutto, dagli U2 ai REM. Che ti posso dire? Michael Jackson, Madonna, tutto, da un posto all'altro. Anche la musica classica mi piace. Le Zeppelin, cosa ti posso dire? L'America, quindi erano i compresi di allora che i più famosi, i più bravi, sì, io tutti li ascoltavo. Gli America mi piacevano molto, c'è cioè anche le Zeppelin degli America. Naturalmente già, io ascoltavo un po' tutto, ma non era di quelli che poi si fissava su un gruppo e sapeva tutto del gruppo, tutto, vita, morte, miracoli, no, io di un gruppo mi può piacere un certo LP, o più LP, o una canzone singola, o più canzoni, ma poi non vado a fondo, capito, se no non sono di quei fan sfegatati che si strappa i capelli quando c'è il gruppo che viene nella città, no, a suonare, no. Un po' di tutto. Anch'io sono così. Infatti vi ho fatto la pennina e metto tutte le canzoni che mi piacciono sia dagli anni 80 che sino adesso. Tutte le canzoni che a me piacciono, le ho messe nella pennina e mi ascolto la pennina. Io allora nello stereo, vabbè, della macchina, anziché una penna USB che era troppo sporgente, ho messo una scheda SD, Secure Digital, non micro però, la SD normale, quella del taglia francobollo, ci ho messo centinaia o migliaia di canzoni. Il problema è che poi per cercare quello che ti serve è un macello. E invece sai cosa faccio certe volte? Allora metto in macchina il tablet, no? Col supporto, supporto da cruscotto. Mi scelgo da YouTube la canzone che dico io, le canzoni che dico io, mi faccio la playlist e mi suono tramite Bluetooth che va allo stereo e mi ascolto quello che dico io. E io ce l'ho dalla macchina il tablet, le cerco e vengo. Ah, ma da te integrato, no? Io devo mettere il tablet normale e si collega tramite Bluetooth, però almeno me le scelgo al momento. Che ne so, adesso mi voglio ascoltare i Rocket, sto, quelli pitturati di argento. Lo metti, YouTube, da e te li ascolti. La musica dei Rocket. Ehi, ma lo puoi fare anche col telefonino, vai su Google, cerchi le canzoni su YouTube, le attacchi col filo, non so se tu ce l'hai l'attacco aux, le attacchi col cavetto al telefonino, come faccio io se proprio voglio ascoltare canzoni particolari, e me le ascolto. guarda la fotografia che ti ho mandato su WhatsApp, anche tu Gianni, te l'ho mandata anche a te. Ok, Nemo, alla ricerca di Nemo, vedo un bel monitor. E il mio è. Hai visto? Eia, l'ho visto. Oh già, io so perché metto il tablet, perché praticamente è come avere di qui i computer incorporati nella macchina, con lo schermo grande. Uguale, mi fa da navigatore, da musica, tutto quanto. Almeno vedo bene, capito Marcolì. Eia, ascolta, la definizione cos'è, un Full HD o anche oltre? O HD, HD, Full HD o 4K? 4K è. Il cacchio, deve essere definitissimo. E non l'hai visto lì, quando ti ho mandato la fotografia, come si vede? No, ma la foto è mossa, io la vedo male la foto nata lì. Aspetta che me la riguardo. Tipo mossa, sì, è mossa. Non vedi che è tutto sfocato anche? Sfocato per via del mosso, no? Non rende, bisogna vederlo dal vivo, capito? Da me è perfetta, si vede bene. Solo nell'acquario un pochino, alla fine si sarebbe un po' sfocato, ma è normale. Cazzo, sembra che abbia l'acquario, ve la tira da poco, no? Cazzo, ne ha messo di cose di biliardo. Va bene, ho fatto un'altra, vedi. Questo tipo di pesce mi piace. Avere l'acquario marino con questi pesci. Marco, salvando me, non c'avevo l'aspiratore per lo stagno. Ti ho dato un colpo per far scendere lo stagno, che ti piace attaccare dai pantaloni e non mi riesci più. Aspetta Gianni che allego foto. Ma che è questo monitor da 27 pollici. Che vabbè. Aspetta che ti faccio vedere il davanti del computer, del case. Sì Gianni, guarda la foto, come l'ho fatto, come l'ho messo. Giusto per far passare l'aria dalle bocchette, quelle le ho lasciate libere. Va bene. Va benissimo Marco. Caspita. Ma che cosa ci ha messo? L'applicatore. Quello è un tablet Lenovo e guarda il supporto si fissa al cruscotto a ventosa e tu poi te lo regoli in base alla grandezza, puoi metterci sia lo smartphone che il tablet di varia misura. Questo tablet mi pare 10,3 pollici. E tiene? Sì, tiene benissimo, è fortissima quella ventosa, è micidiale. Infatti guarda, in una foto si vede che stavo ascoltando Madonna quando ho fatto la foto e poi c'era altra roba insomma di fondo. È bello, è come avere quasi quegli schermi integrati nelle macchine, no? Ma cosa? Sì, è bello. Però naturalmente, come ti ho spiegato prima, l'audio lo sento dallo stereo, cioè non esce dal tuo parlantino del tablet, va direttamente allo stereo col Bluetooth e quindi è amplificato. E va meglio. Sì, non... c'è un abisso, cioè il tablet c'ha degli altoparlantini di chicchia, non senti i bassi, capito? Asciugami, tutti quanti orgasmizzati. Ah, mi devo dare da fare, bisognerebbe asciuppare, capito? Perché non ne ho voglia già, non me la sento, ieri mi sentivo veramente male, proprio a terra, ieri sera. E come vai? Non si sa, non si sa, la pressione era buona. Ho detto, ma se il mio, ho detto, ma se la pressione è buona, perché mi sento come se dovessi mancare, come quando la pressione è molto bassa mi sentivo. Io mi ha fatto l'AstraZeneca. Oh, a che ora te l'hai misurata la pressione, Marco? Allora, prima di cenare, tipo 8:30, che io ceno un po' tardi, ho cenato tardi. No, perché siamo, sai, tipo la digestione può alterare. Ho detto, 100, non era neanche bassa, era 149,88. Ho detto, ma allora perché mi sento come se fossi sotto i 100? È strano. Comunque la massima era alta. Ehi, anche la minima, io tendo ad avere la minima alta però anche la massima poteva essere meglio. Io certe volte avevo 120-130, lì era un po' più, però non va mai oltre. Se va oltre quel coso, per me è una cosa veramente inusuale, è l'onfia, ma non va. Io ho capito. Gianni, visto l'hai il PC? Eia. E al fianco è trasparente, mi c'è il vetro, cazzo, si vede tutto quello che c'è dentro. Ah, è bello, eh. Ho dovuto piazzare due volte perché il chiesi non ce l'avevo. E allora quando mi è arrivato l'ho piazzato. E sai che io pensavo che fossero delle casse queste qui all'inizio. No, sono le ventole quelle lì. Sono le ventole che si illuminano. Ce ne sono quattro, tre davanti e una dietro. Mi sono pari i gasci. Hai ragione già, credevo che fossero cazze. Ma detto cazzo, anche l'audio non si è fatto mancare. Ma no, vabbè che c'è un bel impianto audio. Ma sai che me lo vedo, tutto non l'ho tratto mai. Impianto audio? Per il PC. C'è subwoofer e le casse. Ah, per il PC ce l'hai. Si attacca dove c'è attacco per le cuffie. Ho capito. Attacchi lì, cazzo, ma tocca a voi, a Guido, eh. Me lo posso immaginare. Solo che io non c'ho più PC, il PC che ho io è piccolo, è di quegli obsoletti, cosa ne fai? E senti di lui, mi apri una pagina. Bisogna vedere che PC è, basta mettere un SSD e diventa un po' più veloce, perché il disco legge e scrive a una velocità diversa. Col disco meccanico giustamente è un casotto, è lenu lenu. Che PC è? Perché puoi mettere anche nel portatile, mi puoi mettere l'SSD. È un portatile di quelli piccolini, ce ne presenti, quelli piccoli piccoli. Sembra quasi un tablet. Ho capito. Ma se tu ci metti un SSD lì, la velocità aumenta. Luca me l'aveva portato da 1 giga a 2 giga, per fare 2 giga me l'aveva velocizzato, ma adesso è obsoleto perché non fa più gli aggiornamenti, cioè è arretrato come come PC. E quelle sono le RAM, io ti volevo dire il disco rigido, mi. Invece di metterlo meccanico lo metti allo stato solido come ce l'ho io. Vabbè. Ma tanto per quello che lo uso non c'ho proprio più stampate, prima stampavo, facevo le fotografie, facevo tutto. Ero sempre attaccato al PC, prima ero fissato, adesso non me la fatti più brutta. Uso il telefonino per tutto quanto e va bene così. Oh Gianni, ma per le ricette mediche allora tu vai di persona a ritirarle? No, ma le manda su WhatsApp. Ma come le stampi se non è la stampante? No, le stampo, vado in farmacia col cellulare, loro c'è una pistola, sparano sopra la ricetta e mi danno la medicina. Oh, ma si può fare, perché qua vogliono avere la ricetta, sai dove applicano le etichette poi, no? Le tolgono dal farmaco e le applicano sulla ricetta, non lo so se lo facciano qua. Vabbè, a me me le manda tramite email, io le stampo. E poi le compro, le prendo, io. Non sapevo che si potesse fare come hai detto tu. E forse non tutti lo fanno però, non tutte le farmacie. Allora, la mia farmacia come spara? La stampano loro, capito la ricetta? E poi ci attaccano le cose che devono attaccare. La stampano loro, cioè la stampante, la sparano, esce la ricetta e poi la attaccano quello che devono attaccare. Ecco cosa fa. Poi te la sparo con 9x21, eh. A Groviera si fa. Ah, comunque c'ha la Giovezzani, anche la veloce così. Allora probabilmente, Gianni, probabilmente Emanuele, sì, loro praticamente il medico manda le ricette all'indirizzo email o quello che è, o WhatsApp anche della farmacia, e loro te le stampano loro, ecco, tutto lì. Sì, trovo a me